all'aria da ieri sera. È più comodo in albergo, paghi il conto e te ne vai, ma in certe cose tu ci credi ancora. Far l'amore nel tuo letto, prepararmi il tuo caffè, e poi mi lasci andare via quando è ora, perché ognuno ha la sua vita e la mia non è con te. Sei l'altra donna, la libertà, quella che sa e non può dir niente, quella che all'alba rimane sola e che non può mai lasciare in pronto. Come non puoi cercare casa, uscire insieme a farla. Ancora